in primo piano. E Obama, con il suo discorso ieri all'Assemblea Generale dell'ONU, che occupa le aperture prevalentemente dei giornali, anche del Sole 24 Ore, Obama, un mondo nuovo. Obama, non faremo più da soli, sul Corriere della Sera. L'America non può fare da sola, così dice Repubblica. La democrazia non si esporta, la Stampa, ed è sempre una frase di Barack Obama. Insomma, sicuramente oggi, tra l'altro, c'è il G20 a Pittsburgh, l'attenzione si sposta sulla politica internazionale, l'Assemblea dell'ONU di ieri. Diversi commenti proprio che sottolineano il fatto di come Obama abbia iniziato, abbia continuato, diciamo, un nuovo corso rispetto al predecessore Bush. Da questo punto di vista, ora il mondo deve prestare attenzione alla mano tesa di un presidente sincero. E per esempio il commento di Vittorio Zucconi su Repubblica, che parla di critica forte, anche se implicita, che questa nuova amministrazione muove a chi l'ha preceduta. E scrive Zucconi: è tutto in quella impossibilità di imporre la democrazia, dice Obama, a chi non è pronto ad accettarla, a chi non ha maturato le condizioni interne per radicarla. Però, insomma, questa è la notizia del giorno, ma tutti si concentrano anche sugli interventi di altre persone. Prima su tutti, lo show di Gheddafi dalla tribuna, scrive il Corriere della Sera. L'ONU, un consiglio di terrore. Ha parlato invece che un quarto d'ora, come concesso a tutti. Anche Obama, sforato a dire la verità, ha parlato 40 minuti. Gheddafi invece ha parlato per un'ora e 35 minuti. Ha detto, tra l'altro, ha ringraziato sostanzialmente, dopo aver attaccato un po' tutti, appunto l'ONU è un consiglio del terrore, ha quasi stracciato la carta dell'ONU, poi si è fermato all'ultimo. Ha ringraziato solo l'Italia e Obama stesso. Non c'è emigrazione dalla Libia verso l'Italia, dice il Corriere della Sera, riportando il discorso di Gheddafi, perché l'Italia ha riconosciuto i propri torti nei confronti della Libia, chiesto scusa e risarcisce i danni costruendo ospedali e infrastrutture. L'Italia ha compiuto un'azione molto civile. Plaudiamo a quello che hanno fatto il governo Berlusconi e il suo predecessore, ha sottolineato alludendo a Romano Prodi, scrive Maurizio Caprara. E insomma, sicuramente ci sono state delle azioni e dei discorsi anche non apprezzati come quello di Obama. Per esempio, si concentra su il discorso invece di Ahmadinejad, altro molto atteso leader dell'Iran. Simon Sciama, in un editoriale, Simon Sciama è uno scrittore, uno storico, un professore inglese. Scrive un editoriale in prima pagina sul Sole 24 Ore. L'ONU non diventi megafono dell'odio. Uno degli aspetti più repellenti delle reiterate dichiarazioni di Mahmoud Ahmadinejad alla vigilia della festività ebraica del Rosh Hashanah sul fatto che l'Olocausto sarebbe una menzogna è la risposta blanda dei media e dei governi occidentali. Da Berlino sono arrivate doverose dichiarazioni di condanna del discorso del presidente iraniano, mentre a Washington hanno lasciato la rampogna ufficiale al portavoce della Casa Bianca, Robert Gibbs. Ma era come se l'atrocità morale del discorso di Ahmadinejad fosse appena meritevole di commenti. In primo luogo non c'è niente di nuovo. In secondo luogo entra in conflitto con il dilemma pratico di come dialogare con il presidente iraniano durante la visita di questa settimana alle Nazioni Unite. Un modo, scrive Sciama, sarebbe inviare ad Ahmadinejad qualche copia della risoluzione dell'Assemblea Generale del 2005 che ripudia i negazionisti e istituisce una giornata di ricordo dell'Olocausto il 26 gennaio, incoraggiando tutti gli stati membri a insegnare ai loro popoli quel genocidio affinché azioni barbare di quel tipo non tornino a ripetersi in futuro. Dunque, insomma, tutti i giornali sottolineano la doppia faccia dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove ovviamente si ritrovano tutti i leader dei paesi membri, e dunque c'è davvero di tutto. Venendo in Italia, i temi di politica caldi che trovate sui giornali sono certamente: uno, lo scudo fiscale con le annesse polemiche, è passato ieri al Senato, ora tocca alla Camera. Passa lo scudo, l'ANM attacca, così scrive la Stampa. L'ANM è il sindacato dei magistrati. C'è il resoconto dell'assemblea dell'aula con la votazione e alcune dichiarazioni molto forti, per esempio Anna Finocchiaro del PD. dopo uscita dall'aula, poco dopo il voto, o meglio poco prima del voto, definisce questo una porcata. Il cartello di Medellin era più onesto, il cartello di Medellin, insomma, narcotrafficanti colombiani. I senatori dell'Italia dei Valori, evasori e mafiosi, ringraziano. Ci sono le polemiche. Il Sole 24 Ore dedica a questo due pagine. Sì del Senato al maxi scudo fiscale, tra l'altro con un'analisi prima di Dino Pesole. La sanatoria allargata giova al gettito, circa 2 miliardi nell'ipotesi minima, attorno ai 4 miliardi nell'ipotesi massima. E quanto il governo si attende dall'operazione scudo fiscale, scrive Pesole, nella versione approvata ieri dall'Aula del Senato. Operazione che sta per decollare proprio in questi giorni, si potrà definitivamente dichiarare avviata solo ai primi di ottobre, quando il decreto correttivo alla legge anticrisi sarà convertito in legge dalla Camera. E tra l'altro il Sole 24 Ore ospita due pareri, uno a favore e uno contrario a questo scudo fiscale. Sono Tommaso Di Tanno, che insegna diritto tributario a Siena, che è assolutamente contrario, dice questo scudo fiscale è stato presentato per quello che non è, e cioè è un condono, e questo cambia le carte in tavola. Invece a favore è Guglielmo Maistro dell'Università di Piacenza, intervistato sempre da Dino Pesole peraltro, che dice: trovo eccessiva la polemica innescata su un provvedimento la cui finalità prevalente è fare gettito ed apprezzare il tentativo di fiaccare i paradisi fiscali. E allo scudo fiscale sono dedicate diverse interviste interessanti, ne leggo alcune. Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi, è un economista francese che conosce anche bene l'Italia, ha insegnato tanti anni in Italia, intervistato da Repubblica, pagina 11, dice: è un condono boomerang, quei soldi non resteranno in Italia. E vediamo perché, dice Fitoussi. Innanzitutto dice: vista la lacrità che stanno dimostrando i legislatori nell'aggiungere emendamenti e postille al provvedimento, potevano ricordarsi di chiarire a molto più chiare lettere una clausola: i soldi che rientrano devono restare in Italia per un certo numero di anni, poniamo 3 o 5, ed essere reinvestiti qui. Invece, a quanto mi risulta, ci sono solo alcune iniziative private come quella di Confindustria, ma nessuna regola davvero cogente. E poi dice ancora Fitoussi: il secondo motivo, secondo me, di inefficacia del provvedimento è questo. Anche quando nella disperata ricerca di capitale si fa un condono, bisogna dare l'impressione certa e ineludibile che questo provvedimento è assolutamente eccezionale e che mai e poi mai ne seguirà un altro. Evidentemente per lui così non è. Critico è anche Pierluigi Bersani, che fa un'intervista a tutto campo, per la verità, a Federico Geremicca sulla Stampa. E parlando di politica, Bersani definisce lo scudo una vergogna. Parlando di economia, dice: il peggio della crisi ce l'abbiamo davanti. Tremonti, l'incantatore, dice: la finanziaria non c'è e comunque, se necessario, gli aggiustamenti poi li faccio io. Finga di essere al governo, concretamente che farebbe? Chiede Geremicca. Subito detrazioni fiscali per le fasce più deboli, risponde Bersani, lasciando un po' di soldi in tasca a chi non ne ha, così da spingere i consumi. Per i comuni invece la possibilità di avviare tanti piccoli cantieri, con la facoltà per chi in 6 mesi bandisce le gare, appalta i lavori, di sforare il patto di stabilità. Invece nulla di tutto questo. E ancora sullo scudo fiscale, appunto, dire che non piace è poco, il mio giudizio è che sia una vergogna. Non solo è uno schiaffo a chi paga le tasse, ma è anche un vero e proprio indulto per gravi reati fiscali e finanziari. In più, lo scudo è destinato a produrre danni anche in prospettiva. Chi invece lo difende, lo scudo, è Renato Brunetta, che per la verità fa un'intervista anche qui a tutto campo, al Messaggero, a Carlo Fusi. In realtà l'intervista è tutta concentrata, insomma, sugli attacchi recenti di Brunetta, sulla vicenda degli attacchi all'elite, a una certa sinistra permale, come l'ha definita lui. Però, riguardo allo scudo fiscale, dice: le accuse del PD sono inconsistenti, Brunetta. Quelle norme sono in linea con la strategia mondiale di lotta ai paradisi fiscali. Per la prima volta nella storia contemporanea si fanno norme affinché per i capitali in fuga non ci siano più case matte dove andarsi a rifugiare. Vogliamo mettere un tappetino rosso per recuperare questi capitali che rientrano facendoli pagare una tassa? O si preferisce che vadano da qualche altra parte? Brunetta è invece favorevole, difende lo scudo fiscale, spiega perché è importante. Per quel che riguarda il resto dell'intervista, invece, Brunetta difende il suo lavoro, dice: ho dimezzato le assenze, abbiamo realizzato la più grande opera di trasparenza mai fatta, non guardando in faccia nessuno con la class action nel settore pubblico. E allora perché usa le maniere forti? Beh, ogni ministro ha il suo carattere, dice Brunetta. Tremonti ha gestito in maniera straordinaria la crisi, la Gelmini è dolce e determinata, io sono fatto così. La verità è che questo è un governo rivoluzionario. E ancora, contro le elite, vede, il problema è che gli italiani tutte le mattine sfogliano i quotidiani e li assale l'angoscia, mentre occorrerebbe coesione sociale. Scusi, chiede Carlo Fusi, ma dove sarebbero i segni di queste elite, di questa volontà di addirittura rovesciare il voto democratico? Li vedo nell'editoria, in un certo giornalismo, in certi metrapensée, in certi corifei sedicenti intellettuali. Li vedo in determinate congiunzioni tra pezzi della cattiva finanza, delle cattive banche, della cattiva cultura. Insomma, insiste Brunetta, e alla domanda: ma in concreto, secondo lei, c'è un tentativo di far cadere Berlusconi in questa legislatura? Questo è sicuro, risponde Brunetta. E allora il traffico e poi le altre notizie dei giornali. In primo piano. La politica si concentra anche su due temi molto attuali, vale a dire il testamento biologico, la legge sul testamento biologico che riprende il suo iter alla Camera, e per la quale per esempio il giornale oggi mette a confronto due pareri di due più che editorialisti, del direttore Vittorio Feltri e di Renato Farina, che hanno posizioni contrastanti. Che errore cambiare quella legge, di Renato Farina in prima pagina, invece Vittorio Feltri dice: il vero errore è imporre come morire. Il tema aperto anche da una lettera che alcuni esponenti del PDL hanno pubblicato ieri, hanno fatto pubblicare, hanno chiesto di pubblicare, che il Foglio ha diramato, chiedendo insomma una maggiore libertà di scelta all'interno del PDL sulla questione del testamento biologico. Questo è uno dei due temi politici che trovate in primo piano sui giornali, insieme a quello del voto sulla cittadinanza per gli immigrati. Perché? Perché su questo il PDL va avanti, alcune frange del PDL, i cosiddetti finiani, porteranno la proposta alla Camera. E tra l'altro questo è il tema di cui si occuperà Oscar Giannino alle 9. E c'è un'intervista a Ignazio La Russa, il ministro della difesa, tra l'altro ex ADN ovviamente, che dice: il voto agli immigrati, Gianfranco Fini su questo sbaglia. Qualche volta Gianfranco mette l'accento sull'accoglienza più che sulla legalità, non perché non creda nella necessità di rispettare la legge, dice La Russa, ma perché per noi di destra il rispetto della legge è un fatto scontato. È come l'anticomunismo, noi non ne parliamo mai perché siamo anticomunisti dentro. Tornando a Fini agli immigrati, dice La Russa, l'ho detto, qualche volta si rischia di generare degli equivoci. Non credo neanche che per gli stranieri sia opportuno il voto alle elezioni amministrative. La proposta di La Russa su questo: i figli di immigrati regolari ma che non hanno ancora la cittadinanza, se sono nati in Italia, hanno completato almeno un ciclo di studi, diventino automaticamente e immediatamente cittadini italiani. E anche su Repubblica, cittadinanza breve, Gianfranco sfida la Lega, Gianfranco ovviamente Fini, vado avanti, non c'è vincolo di coalizione. Quindi questi erano i temi profilati all'orizzonte, punto di scontro della politica sulla questione della cittadinanza agli immigrati, ma anche il testamento biologico, tanto che il Manifesto ci dedica pagina 2-3 col titolo emblematico: Fini libera il popolo della libertà. C'è poi tutta la vicenda anno zero. La voglio ricordare perché il sondaggio nostro di oggi, il direttore generale della RAI ha detto, parlando in commissione vigilanza, a proposito di anno zero, è una TV contro, una TV che alla fine danneggia il servizio pubblico, dicendo che se c'è un 30% di evasione del canone della RAI vuol dire che certa gente non è neanche soddisfatta del servizio pubblico. Che ne pensate? Questo è il sondaggio che potete votare sul sito di Radio 24 o il sole24ore.com, poi ne parleremo alle 8.30, ma è l'apertura di, per esempio, il Fatto, sapete, il nuovo quotidiano che ieri è andato esaurito, 100.000 copie in poche ore. Ecco il piano per distruggere la RAI, la guerra di Masi, che è il direttore generale, corrode il servizio pubblico. E poi all'interno la pagina 2, la pagina 3, un piano quasi scientifico contro la RAI, guerra a Report, a Santoro, a Fazio. Invece non so, i commenti sono diversi, per esempio di Maurizio Belpietro, che scrive su Santoro: Il conduttore di Anno Zero i processi non li guarda, ma li fa, istruendoli nei più minuti dettagli, perché nel suo genere Michele è maestro. Nessuno come lui è capace di mettere in piedi uno spettacolo giudiziario dove in ogni puntata si condanni qualcuno facendolo a pezzi senza diritto di difesa. Anche il Foglio è, come al solito, molto molto puntuto, regolarmente in onda in prima pagina. Più complicato varare il contratto di travaglio che la finanziaria. Santoro procede in trionfo, perciò stasera andrà in onda come voleva, con l'argomento che voleva, il farabutti di berlusconiana memoria, con chi voleva, a cominciare da Travaglio. L'incredibile rissa dell'altro giorno tra il conduttore e il direttore di rete ha lasciato il segno, ma non ha prodotto conseguenze, a cominciare dalla più importante: quelli della Rai non volevano Travaglio, e Travaglio farà l'editoriale della puntata di Anno Zero di questa sera, e ha giurato Santoro di tutti gli Anno Zero che verranno. Lo trovate un po' ovunque, su Corriere, Rai, Masi critica Anno Zero, punto. Danneggia il servizio pubblico, però non è in discussione come trasmissione. E questo vi vogliamo chiedere, se siete d'accordo, se una trasmissione come Anno Zero danneggia il servizio pubblico. In chiusura, le due segnalazioni che mi rimangono: corruzione, Vittorio Emanuele a giudizio. Sarà processato il 21 dicembre l'accusa Mazzette per ottenere nulla osta. Video poker truccati, era una vicenda partita da Potenza, Woodcock, era anche una vicenda, l'indagine shock di Vallettopoli. C'è un po' ovunque, anche sul giornale, un'intera pagina. Associazione per delinquere Vittorio Emanuele a processo. Infine, una segnalazione da La Stampa: Metropoli sull'orlo di una crisi di nervi. Non bella come notizia per chi vive nelle grandi città. Aumentano i casi di stress, nevrosi, insonnia. Sindaci e scienziati provano a correre ai ripari. Aumentano i casi di tic, di panico. In Lombardia sono nati due nuovi centri per occuparsi di pazienti psichiatrici. Non reggono allo stress delle città. Una bella inchiesta, un bel servizio di Elena Lisa, con anche un'intervista a Elio delle Storie Tese, la mia Milano uccisa dalla maleducazione. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Vi ricordo allora il sondaggio, che è già aperto su radio24.it alla sezione bianco o nero, o ilsole24ore.com. Vi chiediamo se siete d'accordo con la frase del direttore generale della RAI su Anno Zero, che parte oggi. Ha detto il direttore generale della RAI: certa TV contro danneggia il servizio pubblico. Ne parleremo alle 8.30, potete già anche chiamare per prenotare il vostro intervento all'800 24 0024.